Presidente, è significativo che il momento conclusivo di una manifestazione come Mad Expo sia stato contrassegnato dalla presenza di tanti ragazzi, tanti giovani in gamba che avete voluto premiare oggi. Ma noi da sempre come federazione per le nostre manifestazioni, sia queste che sono del mobile, abbiamo l'obiettivo prioritario di investire nei giovani, perché i giovani sono il futuro e vengono coinvolti sempre non in progetti teorici ma progetti concreti come in questo caso, affinché li si avvicinano al mondo reale del lavoro. Questo credo che sia anche una funzione di carattere sociale che qualunque azienda o qualunque federazione deve svolgere, a maggior ragione noi per quello che rappresentiamo sia nel mondo del mobile, del legno, anche delle costruzioni, con le quali fra l'altro abbiamo un diretto collegamento. Le sono piaciuti questi progetti, Presidente? Quale in particolare più magari ha colpito la sua curiosità, la sua attenzione? Cosa porterà dentro? Ecco. No, diciamo che è un po' difficile discriminare fra l'altro. Devo dire che ognuno di loro ha una motivazione specifica e la rispecchia profondamente. Certo che la grande direi attenzione che c'è nella sostenibilità, probabilmente perché una generazione che nasce da uno spreco, da un consumismo sfrenato, vederlo in loro come risparmio dell'energia, dell'ecologia in generale, come primo obiettivo, credo che dia la conferma di come sono attenti a cambiare quello che hanno subito fin oggi e prospettarci un futuro migliore, per cui non c'è altro che obiettivamente davvero un grande apprezzamento per lo sforzo che hanno fatto, ma io invece ho detto anche per la chiarezza delle idee che hanno. Presidente, per concludere, c'erano un po' di timori alla vigilia di Mad Expo, visto il momento congiunturale che il Paese sta vivendo, su una reale riuscita della manifestazione. Il bilancio dopo 4 giorni invece, quello che potete fare qual è? Il bilancio è estremamente positivo, perché abbiamo, lo vedremo stasera con la chiusura, la percentuale di incremento di visitatori che l'hanno notato tutti. Il timore c'era, oggi posso dire, evidentemente dirlo prima significava presunzione, non avevamo questo timore noi per un fatto importante, perché per gli investimenti che abbiamo fatto negli anni, non ripeto nel vendere metri quadrati, ma andando in giro per il mondo a sensibilizzare la bellezza di 20 nazioni, ad arrivare a Milano, perché quello che hanno visto qui non è tanti materiale, quella a parte, è quello che ci sarà per il futuro, è l'innovazione, la soluzione di nuove tecnologie, le nuove proposte di materiale, quello che chi lavora in questo mondo o anche la normale persona che vive in un paese ha bisogno di sapere. Allora, tutto questo grande successo è dovuto alla quantità di innovazione che ci sono nei prodotti e alla quantità di convegni, ben 180, che hanno toccato dall'edificio del futuro alla sicurezza del singolo operaio nel cantiere. Non dimentichiamo poi che il giorno di apertura la presenza di un notevole economista come il professor Efkin, che dice nei prossimi 25 anni succederà e dice cose reali, ha magnetizzato tanta di quella gente che è andata via da qui sapendo in futuro il programma che deve svolgere nella propria azienda per avere successo in linea con quello che il mondo si aspetta. Appuntamento nel 2011. Più o meno nel 2011, a ottobre, sicuramente con un successo straordinario per fare in modo che questa diventi la manifestazione di riferimento in Europa, come del resto siamo riusciti a fare con il Salone del Mobile.